Poe, penso che sia ora che ti dica una cosa che avrei dovuto dirti tanto tempo fa. L'ingrediente segreto della mia zuppa dall'ingrediente segreto. Oh! Avvicinati, l'ingrediente segreto è... niente. Eh? Mi hai sentito? Niente! Non esiste un ingrediente segreto! Aspetta, aspetta! È una normalissima zuppa con spaghetti. Non aggiungi una salsa speciale o qualcos'altro? Non serve! Per rendere una cosa speciale, devi solo credere che sia speciale! Linee d'ombra. Storie dei nuovi vizi capitali. Di Matteo Caccia. Il cibo per me è importantissimo. Adesso sto combattendo per una torta mantovana che rischia l'estinzione. Sto cercando di valorizzarla perché non venga dimenticata. Man mano che mi avvicinavo a casa, l'orribile immagine della mia dolce metà che apriva il sacchetto e trovava soltanto il bordo mezzo masticato della pizza acquisiva una verosimiglianza crescente. Storie di sopravvivenza ai carboidrati e ai boschi più selvaggi in una puntata tutta dedicata al vizio della gola. Io non so qual è il vostro metodo per, diciamo così, appunto, sopravvivere ai carboidrati, cioè per resistere al cibo al quale siete molto affezionati. Poi magari per alcuni sono i carboidrati, per altri sono gli zuccheri, i dolci, i salumi, nel mio caso ad esempio i formaggi. Insomma, non so se avete un metodo, non so se vi lasciate andare e semplicemente affogate nei carboidrati e nei dolciumi oppure resistete. Ma la puntata di oggi è una puntata che parte da lì, è una puntata dedicata al vizio della gola, lo avete sentito, parte da lì, parte dai carboidrati, parte dalla pizza, per andare da un'altra parte, per raccontare come resistere, come sopravvivere in questo caso ai carboidrati. E ce lo racconta molto bene Carlo nella sua storia, utilizzando un'immagine, sostanzialmente un escamotage psicologico, ve lo dico in anteprima. E poi andiamo da un'altra parte, parliamo di storie di vera e propria sopravvivenza. Andiamo a oltre due secoli fa, andiamo nel parco di Yellowstone, che non era ancora un parco all'epoca, era semplicemente un'area naturale molto selvaggia. Raccontiamo la storia di un uomo che sopravvive lì dentro. Egli probabilmente avrebbe pregato, sperato, implorato per avere dei carboidrati, e invece ce la fa, nonostante tutto. E poi abbiamo un ospite a cui tengo moltissimo, perché esiste una federazione italiana, che è una federazione sportiva, di sopravvivenza. Per cui se qualcuno vuole provare questo sport e cercare di capire come si sopravvive nei boschi, quindi imparare a fare, insomma, una sorta di Bear Grylls nostrano, no? Italiano, perché è la federazione italiana di sport di sopravvivenza. Se volete scoprire come si accende un fuoco nel bosco, come probabilmente si riesce a bere dell'acqua che non è potabile, renderla potabile, ecco, rimanete con noi, oggi parleremo anche di quello. Il vizio della gola ci porta veramente dai carboidrati fino alla sopravvivenza. E a proposito di sopravvivenza ai carboidrati, visto che partiamo da qui, io ho fatto una piccola ricerca questa mattina e ho trovato delle tecniche per resistere al cibo. Sono delle tecniche che fortunatamente non ho mai dovuto mettere in pratica, sono abbastanza fortunato da questo punto di vista. E le tecniche sono in sostanza visualizzazioni di se stessi, tipo visualizzati dimagrito, dice uno di questi suggerimenti che si trovano online. Goditi i pasti, va bene, mastica lentamente, questo lo sapevamo. Non fare mai la spesa a stomaco vuoto, grazie. Mangia verdura cruda e amara, meglio della roba dolce. E tra l'altro, tra i cibi che favoriscono i meccanismi psicologici negativi, ovviamente ci sono i carboidrati. Se voi avete un metodo per resistere al cibo, 349-238-6666, resistenza ai carboidrati e a qualsiasi altro cibo che rischia di farvi affogare oppure troppo ingrassare, 349-238-6666 è il numero a cui mandare un messaggio via WhatsApp se avete un metodo che è distrarvi. Alcuni dicono, addirittura leggevo che la smania di cibo passa dopo 3-10 minuti, massimo dura 10 minuti, quel desiderio di mangiare che ci viene a tutti i costi, proprio la gola lì la fa da padrone. Dopo 10 minuti quella cosa cala, si autoplaca. Durante quei 10 minuti, per evitare che la gola abbia la meglio su di noi, ci sono dei metodi molto semplici, sono delle tecniche cognitive, addirittura magari sentiremo più avanti uno psicologo che ci parla di come resistere al cibo, ma soprattutto fare pensieri positivi. Insomma, questo è un pochettino più complicato, devo dire, ma così, non mangiare, fai un pensiero positivo. Tant'è, torniamo a fare quello che facciamo di solito, raccontiamo storie. Abbiamo due storie di pizza e storie di sopravvivenza ai carboidrati. Mettetevi comodi, benvenuti a Linee d'Ombra. Insegnavo all'università di Brescia, facevo il pendolare Pesaro-Brescia. Ero finito lì per uno strano insieme di circostanze. Come dire, che a Brescia non conoscevo nessuno, se non qualche collega che era nella stessa condizione di pendolare. Pendolare, diciamo, di lungo corso, perché un paio di notti si dormiva lì, in città. Sveglia, colazione in pasticceria, pranzo in mensa e fin qui tutto bene. Più problematica la cena. La pizzeria prima o poi diventava insostenibile. I ristoranti troppo costosi, spesso pretenziosi, non ti mettono a tuo agio. Restavano le osterie. Le provo tutte, o quasi. Alla fine la scelta è facile. Vince per distacco l'osteria della Torre Bruciata. Del proprietario ricordo il nome, si chiamava Guglielmone. Più che meritato, vista la stazza, almeno 165 kg. La sua ragazza invece, molto carina, molto magra, era tipo la quarta parte del Guglielmone. Passano i mesi, divento una delle facce note, uno di casa, insomma. A fine giornata, dopo la cena, mi fermo a discorrere e a sentire i discorsi di altri frequentatori, tutta quella gente che andare a letto si fa sempre in tempo. In uno di questi dibattiti racconto della pizza Umbra, uno dei capolavori gastronomici di mia moglie, Umbra, ovviamente. Guglielmone si mostra subito interessatissimo. Ha mangiato quella pizza anni prima. Diverse volte aveva provato a rifarla, ma non c'era riuscito. Prometto di portargli la ricetta la settimana dopo e così faccio. Guglielmo la legge e rimane deluso. Dice, ma questa cosa non serve a niente. Ma come, dico, è la ricetta originale, la scritta da una che la fa questa pizza, mia moglie. Guglielmone insiste, per farla bene la devi veder fare. Ci sono tante cose che non si possono scrivere, bisogna saperle fare. A questo punto ho una folgorazione. Domani sono a casa, faccio con mia moglie questa pizza, imparo i trucchi e poi te la vengo a fare qui sotto gli occhi. Gli ingredienti li compri tu, gli dico. Così 10 giorni dopo, vestito come un cuoco di razza, sono all'opera nella cucina dell'osteria. Oltre al Guglielmone, altri mai visti prima stanno lì a osservarmi e a fare commenti in una lingua bresciana incomprensibile. Risultato finale? Più che ottimo, sia nella pizza alta, sia in quella bassa. Io ti incontrai una bocca rossa come una cerasa, una pelle profumata e fronne rosa. Io ti incontrai, volevo offrirti, pagandolo anche a rate, tu brillante e 15 carate. Ma tu mi va a pizza, a pizza, a pizza, a pomarola in coppa, a pomarola in coppa. Ma tu mi va a pizza, a pizza, a pizza, a pomarola in coppa, a pizza e niente più. Io ti portai a dove stanno meglio ristorante, a dove si mangia mentre o mare canta. Io te portai entusiasmato da tutto sta parate, ordinai luce far arrostute. Ma tu li avizi, avizi, avizi, abumarolanga, ma tu li avizi, avizi, avizi, capo marocco, avizza e niente più. Intanto arrivano delle tecniche, il 349-238-6666 per resistere al cibo. Le più semplici è lavarsi i denti, ovviamente, prima di mangiare il dolce, così poi il gusto del dentifricio ti impedisce di mangiare gli zuccheri. E poi Gianni, antica sapienza delle nonne, come diceva mia nonna, vuoi calare molto di peso? Fai un mese di ospedale e vedrai. Ora andiamo avanti, non ci serve un mese di ospedale per resistere ai carboidrati, per sopravvivere ai carboidrati. Ce la racconta la prossima storia, è la storia che ci ha mandato Carlo e ci racconta come davanti a una pizza incredibile lui trova il modo per resistere. Era da tempo che volevo testare la mia forza di volontà. Avevo preso in considerazione diverse ipotesi, ma alla fine ho capito che il modo migliore era mettere il dito nella piaga della mia golosaggine. E così, non appena ho sentito un certo languore, sono andato in piazza a prendere un trancio di pizza. Ho scelto il mio gusto preferito, quello che in genere trovo irresistibile, pizza messicana, con fagioli, cipolla, salsiccia e naturalmente una bella dose di peperoncino. Me la faccio incartare. E qui cominciava la vera prova. trasportare il sacchetto a casa percorrendo il tragitto a piedi, 10 minuti circa, e consegnare la pizza perfettamente integra nelle mani di mia moglie. Per i primi 2 minuti è stato facile. Nonostante le mie indicazioni di non scaldarla troppo, detesto aspettare quando ho fame, la commessa me l'aveva servita comunque bollente. Poi, mano a mano che l'involucro si raffreddava, dissipando ogni residuo timore di ustioni orali, il pensiero di quella bomba di gusto a portata di bocca si è fatto largo, diventando sempre più invadente. E così, man mano che mi avvicinavo a casa, l'orribile immagine della mia dolce metà che apriva il sacchetto e trovava soltanto il bordo, tra l'altro mezzo masticato, acquisiva una crescente verosimiglianza. Stavo per cedere. Allora ho cercato di stringere i denti, facendo attenzione a non metterci la pizza in mezzo, ovviamente. La motivazione affettiva a quel punto non bastava. Ero nella delicata fase in cui, anche solo per un piccolo morso, avrei dato mia moglie in pasto a un branco di camionisti arrapati. L'amore è una cosa meravigliosa, però ha i suoi limiti, nulla è perfetto, nemmeno chi ama. E quindi io mi sono trovato tra due fuochi, no? L'amore per una donna e l'amore per il cibo. E siccome io sono un gastronauta, un gourmand, diciamo che in certi momenti, forse in quello, sono stato veramente in crisi. Ecco, un supplizio tantalico che mi ha perseguitato dal negozio, dalla pizzeria fino a casa. Stavo per raggiungere il punto di non ritorno quando, come estrema ratio, tentai una cosa in cui non avevo mai creduto: l'autosuggestione. Per combattere l'acquolina, ormai prossima all'alluvione, dovevo concentrarmi su qualcosa di sgradevole. Impresa non facile, visto che in quel momento l'unica cosa spiacevole era non poter aprire quel dannato involucro. Ho chiuso gli occhi per un attimo, immaginando che al suo interno, invece di uno squisito pezzo di pizza, ci fosse un pezzo di sterco di cane. Uno di quelli che i proprietari infilano nell'apposito sacchetto e trasportano fino al cestino più vicino. E incredibilmente ha funzionato. E fin troppo bene, dato che l'istinto, dopo qualche passo, sarebbe stato di ficcarlo nel cestino del parco. Insomma, ero quasi arrivato ad un soffio dalla meta. Già mi vedevo varcare trionfante la soglia di casa e godermi l'agognato traguardo, la mia sofferta ma storica vittoria sull'appetito e sulla gola, l'affermazione della mente sul corpo, dello spirito sulla carne, ma anche sui fagioli e sulla cipolla. Negli ultimi metri che mi separavano dall'atrio del condominio, tuttavia, un pensiero ha cominciato ad assillarmi: l'ascensore. Una volta entrato in quel bugigattolo antidiluviano, sarei stato solo, a tu per tu, con il fiero pasto. Senza vie di fuga né fisiche né psicologiche, in balia delle sue irresistibili fragranze, drammaticamente accentuate dall'assenza di qualsiasi presa d'aria. Ho pigiato il tasto dell'ascensore sentendo che avrei capitolato, compromettendo un risultato che pareva sicuro. Ho aperto la porta, rassegnato al mio destino di goloso cronico, quando un lezzo disgustoso, eppure familiare, mi ha inondato le narici. La tizia del quinto piano, una stronza che scende la spazzatura con l'ascensore, aveva colpito ancora. Un tanfo che in genere mi dà il voltastomaco. In quell'istante però mi ha permesso di tirare un sospiro di sollievo. Ce l'avevo fatta. «È per te, amore», ho detto raggiante a mia moglie porgendole il sacchetto, anche se in cuor mio ormai batteva per quella del quinto piano che mi aveva salvato. Lord knows I tried to do what's right. One whole long year I stayed home, my day and night, cause I smell a trouble. Thank you. La puntata di oggi è dedicata al vizio della gola, lo avete sentito dalle storie che vi abbiamo raccontato, in particolar modo dalla storia di Carlo, che si potrebbe riassumere in questo modo: riuscire a trovare sistemi per non mangiare la pizza abbastanza singolari. Pronto, ciao Carlo, buongiorno. Ciao, buongiorno. Come stai? Ma insomma, c'è di peggio. Ti sento positivissimo, Carlo. Cosa fai nella vita? Me lo racconti? Faccio il porto ombrelli umano, un mestiere che potrebbe sembrare un po' umile, ma in realtà ha un grande vantaggio: quando c'è il sole sei sempre libero. Cosa vuol dire il porto ombrelli umano esattamente? Custodisco gli ombrelli per conto delle persone. Ma in un luogo specifico? Dovunque, dove mi chiamano, sono un freelancer. Aspetta, facciamo un passo indietro. Cioè, parliamo di convegni, luoghi in cui la gente arriva in teoria con un ombrello, giusto? Sì, grandi negozi, catene. E li custodisci dove? Li custodisco come sicurezza, no? Cioè, sono una garanzia personale alla sicurezza dei loro ombrelli. Cioè, quindi tu mi stai dicendo, ma questo è straordinario. Cioè, tu mi stai dicendo che c'è un mercato per quelli che hanno paura che il proprio ombrello gli venga sottratto. Rifatto, invece di infilarlo nell'anonimo e insicuro, no? Ci penso io. Ma questo è un lavoro che tu ti sei inventato, Carlo? Oppure facevi. Chiaramente. Dove vivi esattamente? Sono di Carpi, okay, della bassa modenese, provincia di Modena. Senti, invece l'episodio, vabbè, starei ore a parlare del custode degli ombrelli, però mi sembra che siamo qua per altro motivo. Quanto tempo fa accadeva questo episodio della pizza? Ma è il 2015, ho controllato. 2015, e l'hai scritto immediatamente oppure l'hai tenuto lì e l'hai fatto sedimentare e poi è arrivato? L'ho sedimentato, però è una cosa che è veramente accaduta. Mentre portavo a casa questa pizza meravigliosa, ho immaginato che si potesse verificare questo scontro tra due amori, no? Perché questa è una storia d'amore. L'amore per la pizza, quindi la gola, no? Uh-huh. E l'amore per la propria donna, alla quale porti questo trofeo gastronomico in tonso, no? Questo è il tuo obiettivo. Senti, so che tu questa storia l'hai mandato anche a Massimo Bottura. Sì, l'ho fatta leggere anche a un famoso chef modenese che mi ha molto apprezzata, Massimo Bottura. E l'ha apprezzata, che cosa ha fatto? Ti ha offerto una cena? Sì, lui, lui l'ha apprezzata, lui la cena me l'aveva già offerta per un altro mio raccontino gastrocomico che gli ho mandato anni prima, nel 2009. Senti, invece, a proposito del porto ombrelli umano, qual è il prossimo impegno che hai? Una fiera emiliano-romagnola. Ok, e l'ultimo che hai fatto quando è stato? Il mese scorso, ok. Quindi insomma, diciamo, lavori solo se c'è cattivo tempo. Solo se c'è cattivo tempo lavori. Certo, quando c'è il sole è sempre libero. Va bene, Carlo, ti ringrazio molto per la storia, per la chiacchierata, in bocca al lupo e speriamo che piova. Esatto. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Ma perché, come mai, ma perché? In cucina non ci entro mai. Cosa c'è nella padella? Che profumino. Fai assaggiare un pezzettino. Ma che bontà, ma che bontà. Ma che cosa questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che cosa questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che gustino questa roba qua? Vitello delle Ande? No. Bovino della Gallura? No. Ma che cosa sarà mai questa robina qua? Ma perché, come mai, ma perché? In cantina non ci vengo mai. Bello questo vino! Vino di una volta! Fai assaggiare un goccettino, ma che bontà! Ma che bontà! Ma che cosa questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua, ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua, ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua. E dopo aver scoperto anche un nuovo mestiere, diciamo così, come ci ha raccontato Carlo, del custode degli ombrelli, noi continuiamo, non prima di aver letto Resistere ai carboidrati, scrive Andrea da Brescia: è impossibile, a 34 anni il massimo traguardo raggiunto è non mangiarmi mezzo chilo di pasta da solo e peso più di prima. Ora le borse in diretta e poi torniamo qui con storie di sopravvivenza. Linee d'ombra, storie dei nuovi vizi capitali. Prima di cominciare a raccontare la nuova storia, che è una storia di sopravvivenza vera e propria, io ringrazio Germano che mi scrive al 349-238-6666 che scendere è un verbo intransitivo, quindi non si può dire scendere rifiuti con l'ascensore, certamente, è un po' come non si può dire scendere il cane, eccetera, eccetera. La politica della redazione di Linee d'Ombra è quella di non editare eccessivamente i racconti che ci arrivano dagli ascoltatori a lineedombra@radio24.it per lasciare un loro marchio, una loro originalità, una loro località o regionalità. Però comunque Germano, grazie lo stesso per avercelo segnalato, ne faremo tesoro. Continuiamo a raccontare, andiamo da un'altra parte, andiamo indietro nel tempo, andiamo in un altro luogo che sta al di là dell'oceano. Fino all'estate del 1870 la regione di Yellowstone era ancora un mistero per gli americani, anche se diverse tribù indiane avevano vissuto in quella terra per 10.000 anni, erano molto pochi i bianchi che c'erano passati. I pochi cacciatori che si avventuravano riportavano storie di laghi bollenti, colonne d'acqua che facevano sbuffi come fontane e foreste pietrificate che sembravano storie fantastiche. Per fare chiarezza su quel posto, nell'estate del 1860 partirono 19 esploratori. Fra di loro c'era anche un signore che si chiamava Truman Everts, l'uomo che più di tutti contribuì alla creazione del primo parco nazionale americano. Detta così potrebbe sembrare la storia di un eroe, in realtà tutto quello che Truman Everts fece lo fece grazie alla sua assoluta incompetenza. In una puntata dedicata al vizio della gola e anche alla virtù della sopravvivenza, la seconda storia di oggi è la sua, seguiteci lungo le linee d'ombra. Il 9 settembre 1870 era una tipica giornata di fine estate, soleggiata e calda, nel Montana. Quel giorno Truman Everts, un ex direttore di un ufficio di imposte di 54 anni, che aveva deciso di prendere parte a una spedizione in quell'angolo di terra ancora sconosciuto, tra Montana e Wyoming, chiamato Yellowstone, a causa del forte vento, perde i compagni e si smarrisce a sud di un grande lago. Ma Truman Everts non si preoccupa eccessivamente, è un ottimista di natura e non ha alcun dubbio, l'indomani ritroverà i compagni di spedizione. Si prepara un giaciglio di aghi di pino e aspetta l'alba. Truman da sempre ci vedeva molto male, così il mattino successivo abbandona il suo cavallo per osservare meglio il terreno in cerca di qualche traccia, ma non fa in tempo a tornare sui suoi passi che il cavallo fugge via. Truman prova ad inseguirlo, ma invano. Insieme al cavallo perde anche coperte, armi, attrezzi da pesca, provviste. Nell'inseguimento perde anche definitivamente l'orientamento. Il suo ottimismo è messo a dura prova. Gli restano solo due coltelli da cucina, un paio di occhiali da teatro e gli abiti leggeri che indossa. Niente cibo e niente fuoco per affrontare quella seconda lunga notte. Il giorno dopo lascia diversi messaggi per i suoi compagni, ma questi non li trovano. Del resto anche lui non trova i loro messaggi, né sente gli spari a salve, né vede i fuochi di segnalamento. Non potendo andare a caccia o a pescare, la fame diventa insopportabile. Cerca di tornare sui suoi passi, ma si trova sulle rive di un lago. Gli sembra di vedere le vele di una nave all'orizzonte, sull'acqua, ma è un delirio causato dalla fame. Quella che a lui pare una nave, in realtà è un grosso pellicano appoggiato sull'acqua. Quella sera stessa ha un incontro con un puma. Si salva arrampicandosi su un pino per tutta la notte. La notte lo sorprende anche una tempesta di neve. Scendendo dall'albero scova un piccolo uccello canoro mezzo ghiacciato e lì davanti a lui. Lo cattura, se lo mangia crudo. Erano 5 giorni che non mangiava nulla. Quello stesso giorno trova una sorgente di acqua calda. Sul suo diario appunta: in un primo momento fu appena preferibile alla tempesta di neve, ma ben presto mi abituai all'acqua calda e alla fine mi piacque. Rimane a mollo nelle acque termali per 7 giorni. Coming all of the hillside. accanto alle acque termali scopre una specie di cardo locale. Lo fa bollire in una vicina sorgente e si nutre per giorni di quel cardo. Crea un amo per pescare con uno spillo e una lenza con una stringa. Riesce ad accendere un fuoco grazie agli occhialini da teatro. Dopo quasi 2 settimane però impazzisce del tutto per la fame. Perde la cognizione del tempo. Comincia a conversare con amici immaginari. Una notte si costruisce una specie di nido con gli aghi di pino. Accende un fuoco accanto e si addormenta. Si sveglia di fronte a una parete di fuoco con i capelli in fiamme. Per salvarsi si lancia in una pozza d'acqua e aspetta che l'incendio cessi. Un po' bruciacchiato ma vivo, gli appare il fantasma di un vecchio amico che gli suggerisce di seguire la corrente del fiume. Arriva ad una pozza d'acqua limpida piena di pesciolini. Mangia così tanti pesci crudi che gli viene una violenta intossicazione alimentare. Lo trova Jack Baronet, un cercatore d'oro senza fortuna. La mattina del 16 ottobre Jack vede una sagoma scura rantolare sulla neve. Imbraccia il fucile e si avvicina, convinto che sia un orso ferito. Ma più si avvicina e più capisce che quello che ha davanti non è un orso. È Truman Evers, o quello che ne resta di lui. Sono passati 37 giorni da quando si è perso nel bosco. La spedizione ha promesso un premio a chiunque l'avesse salvato. Così Baronet lo porta fino al paese più vicino e lo invita a scrivere un resoconto della sua improbabile storia di sopravvivenza. Tutta la sua storia crea un caso e diventa un'enorme pubblicità alla regione di Yellowstone. E anche grazie a quel clamore che 2 anni dopo, nel 1872, si inaugura il primo grande parco nazionale, il parco di Yellowstone. A Truman Evers offrono di diventarne il primo sovrintendente, ma lui declina l'offerta, convinto che non sia ben pagata. Anche Jack Baronet, il suo salvatore, non avrà mai il premio per averlo salvato. Un giudice del Montana stabilì che il premio di $600 avrebbe dovuto pagarlo Truman in persona, ma Truman si rifiutò di pagare. «Lui non mi ha mai pagato», ha raccontato Baronet, «perché ha detto che se lo avessi lasciato solo avrebbe trovato la sua strada». My discharge from 41, took a place on the San Diego County line. Feel funny being a civilian again. It'd been some time. My wife had died a year ago. I was still trying to find my way back home. I went to work for the INS on the line, California Border Patrol. Bobby Ramirez was a 10-year veteran, and we became friends. His family was from Guanajuato, so the job, it was different for him. He said there was death in the deserts and the mountains. They all they got to the smuggler's ring. We send them home, they come right back again. Carl, hunger's a powerful thing. Well, I was good at doing what I was told. I kept my uniform pressed and clean. At night I chased their shadows through the arroyos and ravines. Drug runners, farmers with their families, young women with little children by their sides. Come night we'd wait out in the canyons, try to keep them from crossing the line. Se la storia di Truman Evers vi è piaciuta e magari avete voglia di provare a sopravvivere nei boschi, magari non nel parco dello Yellowstone, magari non per 37 giorni, dopo le strade in diretta torniamo qui col presidente della Federazione Italiana Survival Sportivo Sperimentale per sapere come... A volte sceglieresti un'auto seguendo solo le emozioni, altre invece ascolti tutte le ragioni e in certi casi pensi più a domani che ad oggi. Ma ora con Nissan Qashqai puoi dire addio ai compromessi. A febbraio il crossover più amato da sempre è tuo a tasso zero, con zero anticipo e zero pensieri, con valore futuro garantito, anche senza permuta o rottamazione. TAN 0 Taigun 01 con finanziamento iBuy, salvo approvazione Nissan finanziaria, info su nissan.it, anche nel weekend. Linee d'ombra. Storie dei nuovi vizi capitali. Rimettendo insieme questa puntata, mettendola insieme, rileggendo la storia che vi abbiamo raccontato poco fa, quella di quest'uomo che sopravvive per 37 giorni nel parco di Yellowstone nel 1870, e tra l'altro la cosa curiosa è che poi grazie a questa storia di fatto gli Stati Uniti decidono di creare il primo parco nazionale, cioè il parco di Yellowstone nel 1872, pochi anni dopo, grazie di fatto a quest'uomo che sopravvive per 37 giorni. Ci siamo domandati in redazione se esiste una tecnica, se esiste una disciplina che ha a che fare con la sopravvivenza, e l'abbiamo trovata, perché sì, esiste anche una federazione, si chiama Federazione Italiana Survival Sportivo e Sperimentale, e al telefono con noi c'è il presidente Enzo Maulucci. Pronto Enzo, buongiorno. Salve, buon pomeriggio a tutti. Grazie per essere qua. La prima cosa che le vorrei chiedere è il survival sportivo è chiaramente sperimentale, è chiaramente un'attività sportiva, ludica, dico bene? Sì, è nata come attività, un po' come il rock and roll, è nato spontaneo, ludico, eccetera. Attualmente siamo in fase però progressive, tipo anni 70, tipo Genesis e Pink Floyd, nel senso che ci siamo evoluti nel frattempo, lavoriamo con l'università, facciamo spedizioni scientifiche, insomma ci siamo dati un assetto anche internazionale. Che tipo di attività fate, Enzo? Allora, di base il survival è una sorta di metadisciplina che riassume tutti gli sport e le attività che aiutano a sopravvivere, quindi dal primo soccorso alla canoa, all'arrampicata, al tiro con l'arco. Però non è solo un doppio decathlon di attività sportive. Diciamo che questa disciplina le attraversa tutte, non ci sarebbe tempo neanche per 20 vite per impararle tutte diciamo in modo specialistico, le attraversa cogliendo da tutte queste discipline l'indispensabile che serve all'occorrenza. Quindi survival si può definire una scienza del pericolo, io l'amo anche definire arte parziale, non marziale, nel senso che richiede anche il pensiero divergente degli artisti per risolvere i problemi, perché ad ogni problema chiaramente è diverso, ha una soluzione diversa, è immagino una questa di problem solving. E poi è sbagliato pensare che si svolga solo in ambienti naturali, nel senso che un ramo collaterale, il prepping per esempio, si occupa di survival urbano, quindi abbiamo diverse. Anche se io in questo momento sono sul vostro profilo Facebook della Federazione Italiana Survival Sportivo Sperimentale, ci sono chiaramente delle bellissime immagini di boschi e di persone che ci stanno e che ci vivono. Praticamente che cosa fate, Enzo? Organizzate dei fine settimana, dei corsi? C'è un percorso didattico? Sì, c'è un percorso didattico ad 8 livelli, abbiamo ottenuto da poco la qualifica europea, siamo la prima federazione che si occupa, diciamo, in modo sistematico e anche strutturato della disciplina. Con varie collaborazioni abbiamo messo a punto un regolamento che appunto si trova sul sito e che ha anche dei principi filosofici, scientifici. Insomma, il survival non è semplicemente andare in giro per i boschi. All'inizio è nata un po' come è stata interpretata come una forma di rambismo paramilitare. In realtà, almeno in Italia e in Europa, un'accezione del tutto diversa. Comunque sì, operiamo in ambienti naturali, ci occupiamo soprattutto di ecologia umana. Molti non sanno che l'ecologia non si limita a quella animale o vegetale, ma l'ecologia umana è una scienza precisa che si occupa degli insediamenti umani, ma anche del corpo umano all'interno dell'ambiente. Quindi diciamo applichiamo normalmente i corsi di sopravvivenza che organizziamo delle gare, dei contest, delle manifestazioni, delle spedizioni scientifiche, le organizziamo in ambienti naturali estremi. Non bisogna dimenticare che l'ambiente più estremo è quello urbano e cittadino, cioè si muore di più in automobile, tanto per dirne questo, questo nei boschi. È un vecchio adagio che è sempre giusto ricordare. Enzo Maulucci, quante persone girano intorno alla Federazione Italiana Survival Sportivo? Cioè più o meno siamo qualche migliaio, diciamo. Okay. Che dovendo fare un censimento preciso l'ha fatto il CONI quando ha definito il survival l'attività sportiva più sicura, perché effettivamente in 33 anni non è mai successo un incidente. Perché poi si chiama survival, quindi direi che insomma è proprio, l'obiettivo è quello, lo sport è sopravvivere, quindi altrimenti non ci sarebbe lo sport. È uno sport estremo

che per quanto mi riguarda, io guardo il tuo curriculum, tu devi avere quel posto. Poi ho avuto una persona che la conosceva, tramite è riuscita a fargliela avere, e adesso forse riusciamo a incontrarci, adesso vediamo. Grazie ancora ovviamente a Giorgio Bazzega che ci sta raccontando tutta la sua storia, che chiude questa settimana. Io comunque questo weekend, non so voi, ma il 15 e il 16 febbraio vado a Sant'Omero, in provincia di Teramo, in Abruzzo, dove si fa un corso di sopravvivenza che si chiama Ghost CBRN, corso per la difesa individuale di gruppo da aggressioni chimiche, batteriologiche, radiologiche e nucleari. E buon divertimento. Linea al GR, poi torniamo domani per raccontare storie, che è il modo migliore per conoscere il mondo. Viva! We'll be right back.